Noi sono mesi che stiamo incrementando come sindacato USB l'intervento e la denuncia sulla questione delle stragi sul lavoro. Il dato è confermato, questi 3-4 omicidi sul lavoro ogni giorno sono un dato che emerge all'attenzione della politica soltanto quando accadono cose eclatanti come quello che è successo a Firenze al cantiere di Esselunga. Il dato crudele che abbiamo tutti di fronte è che la vita delle lavoratrici e dei lavoratori in questo paese vale molto poco, vale sicuramente meno della serie di guadagno, di profitto dell'imprenditoria, sia quella che commissiona questi lavori come Esselunga, sia di chi prende questi lavori e li organizza in appalti e subappalti. Quindi due conferme possiamo dire: una, la questione chiaramente della mancanza di misure e di prevenzione di incidenti mortali sul lavoro, e non solo incidenti mortali ma anche incidenti che portano a lesioni gravi, gravissime a tantissimi lavoratori. L'altra questione è che a causare questi omicidi non è soltanto l'assenza di controllo, la mancanza totale di umanità di chi mette a rischio queste vite, ma ovviamente qui c'è anche un'altra conferma, che quando si parla di appalti e subappalti, rimanere mutilati, feriti, uccisi durante il lavoro cresce sempre di più. A Bologna abbiamo avuto tante conferme in questi mesi e questa è l'ennesima dimostrazione che è necessario non soltanto incrementare i controlli ma anche introdurre un deterrente specifico per questo tipo di situazioni, per queste stragi che noi abbiamo individuato con la nostra proposta di legge di regolare, che è quella dell'introduzione per il padronato, per il reato di omicidio sul lavoro e per lesioni gravi e gravissime ai lavoratori. Quella da fare è una battaglia di civiltà, una battaglia di giustizia, è una battaglia di classe per evitare che questo stilicidio continui fino all'infinito. A proposito della legge di iniziativa popolare, voi avete raccolto le firme, se non sbaglio a breve le consegnerete? Ecco, le stiamo certificando, la data era proprio questa settimana, abbiamo trasformato la data di consegna ufficiale delle firme in una giornata di mobilitazione, di sciopero nazionale. Lo sciopero, lo dico per informazione, riguarda tutti i settori del lavoro privato, è uno sciopero di 8 ore che riguarda tutti i settori tranne quelli che purtroppo sono sottoposti alle normative antisciopero e quindi hanno imposto il preavviso di 10 giorni. Sono i settori dei servizi pubblici e dei servizi essenziali. Tranne questi, gli altri possono scioperare, abbiamo inviato le comunicazioni alle aziende, quindi si può scioperare in tutti i settori che non hanno l'obbligo del preavviso. Dopodiché alle 5, oltre ai presidi che si terranno nei luoghi di lavoro, nei principali, Bologna abbiamo lanciato un presidio sotto la prefettura. Il nostro referente è il governo, è la ministra Calderoli, tra l'altro si terrà anche a Roma una manifestazione analoga.